Focus Economia. Le 17, 7 minuti e 50 secondi. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia da Simone Spezia. Una giornata nella quale naturalmente torneremo a parlare dell'Irlanda e lo faremo nell'ambito di un discorso sulla presentazione di un nuovo rapporto sull'economia globale che ci permetterà anche di prendere un attimo di respiro rispetto alla strettissima attualità di questi giorni e vedremo se sarà, ne parleremo con il professor Mario De Aglio, se sarà un sospiro di sollievo oppure no, o un sospiro di preoccupazione. Parleremo di questo, naturalmente parleremo anche di alcuni dati interessanti che sono stati diffusi oggi dalla Banca Mondiale in un rapporto presentato insieme a PricewaterhouseCoopers, nel quale si evidenzia la difficile condizione delle imprese italiane sul fronte delle tasse. Era una cosa che naturalmente sapevamo, ne parliamo spesso, non solo dal punto di vista della quantità di tasse pagate, ma anche dal punto di vista del tempo impiegato per pagare queste tasse, per gli adempimenti fiscali. Calcola questo rapporto 283 ore all'anno, fatto che ci pone sui 183 paesi analizzati in tutto il pianeta fra le ultime posizioni, comunque nella seconda parte delle due centinaia, 120esimi circa, se non andiamo errati. Comunque lo approfondiremo più tardi. Parleremo anche di beni culturali. È stato diffuso anche qua un rapporto molto interessante ieri, dal quale emerge che per ogni 100 euro di prodotto interno lordo investito nel settore culturale in genere se ne generano 249 per tutto il sistema economico. E poi naturalmente c'è il rapporto dell'Ocse, del quale anche i nostri giornali radio vi hanno riferito. Sentiremo un'intervista con Piercarlo Padoan, il capo economista. Ora le notizie in breve di questa giornata. In tutto ciò la giornata dei mercati è buona perché il FTSE MIB guadagna l'1,18% ad un passo dalla chiusura, il FTSE All Share all'1,17%, qualche preoccupazione sembra essersene andata, si beneficia anche del buon andamento di Wall Street che guadagna l'1,6% e il Nasdaq guadagna l'1,78% e recupera qualcosa anche l'euro. In rialzo anche le materie prime, il petrolio aperto con un più 1,8% ad $81,85 e l'oro ad un più 1,1% a $1,351,20 l'oncia. Si era parlato del problema degli Airbus A380 che a quanto pare appunto avevano un problema oggettivamente piuttosto grave, un problema al motore. A quanto pare Rolls-Royce potrebbe dover sostituire la metà dei motori Trent 900 montati sugli Airbus A380 già venduti dopo che una delle turbine è esplosa durante un volo agli inizi del mese, l'indicazione della compagnia aerea Qantas. La stessa Airbus ha di fatto confermato, perché ha detto che chiederà a Rolls-Royce un totale risarcimento finanziario per i danni causati sull'intera flotta. I dati dagli Stati Uniti, sussidi di disoccupazione più 2.000 a 439.000 unità. E però ci sono dei dati importanti per quanto riguarda l'indice calcolato dalla Fed di Filadelfia, che riguarda il comparto manifatturiero nel distretto industriale americano. È schizzato a novembre a 22,5 punti da 1 del mese prima, balzando naturalmente ai massimi dell'anno. Bene anche il super indice economico americano che ha segnato ad ottobre un rialzo di 0,5 punto percentuale in linea con le stime. Da segnalare sempre dall'America, poi approfondiremo quando parleremo dei mercati, la quotazione oggi di General Motors che è partita da $33 per azione, questa era l'offerta dell'IPO, è salita dell'8% superando i $35 per azione. Questo ha avuto un effetto benefico su tutti i titoli dell'auto a partire da Fiat che in questo momento guadagna il 3,3%. L'Europa alle prese con la crisi irlandese. La Commissione Europea, la Banca Centrale, il Fondo Monetario sono al lavoro per studiare quale forma dare all'intervento. Poco fa il Fondo Monetario ha chiarito che domani sarà in Irlanda, una delegazione sarà in Irlanda, ma che l'Irlanda ancora non ha chiesto aiuti. E però finalmente qualche segnale da Dublino arriva. Se il ministro delle finanze irlandese Brian Lenihan, nel corso di un'audizione in Parlamento, ha detto che l'Irlanda potrebbe chiedere interventi di assistenza finanziaria per le banche del paese una volta conclusi i negoziati. Qualche tensione ancora sui mercati dei titoli di Stato europei. La Spagna ha collocato bond per 3,6 miliardi di euro e il rendimento sale al 4,6% per i titoli a 10 anni contro il 4,1 di un'analoga asta di settembre, per quanto riguarda i trentennali al 5,48 contro il 5,077 precedente. Tra l'altro arriva una proposta da parte del rapporto preparato da un gruppo di esperti governativi presieduto da Javier Solana, e si immagina un nuovo servizio segreto incaricato di difendere gli interessi economici della Spagna indeboliti, si legge nel rapporto, dagli attacchi della speculazione. È proprio la Spagna tra i paesi, insieme ad Irlanda e Grecia, che secondo l'OCSE nel 2010 vedrà un prodotto interno lordo in rosso. La Grecia -3,9, -0,3 l'Irlanda, -0,2 la Spagna, Portogallo invece su dell'1,5%. Complessivamente nell'area OCSE la crescita si attesterà al 2,8% per scendere al 2,3 nel 2011. Restano rischi, dice ancora l'OCSE, il perdurare della fragilità dei mercati finanziari, i problemi sui debiti sovrani e le tensioni sui mercati dei cambi. Per quanto riguarda l'Italia, dice l'OCSE che la crescita si attesterà nel 2010 all'1%, nel 2011 all'1,3%, nel 2012 all'1,6%. Per quanto riguarda il rapporto deficit-PIL, cala al 5% nel 2010 e al 3,9% nel 2011. Si segnala dall'OCSE, tra l'altro, la necessità di approvare presto la finanziaria, che a questo punto diventa, come dire, sempre più necessaria. Si diceva che le imprese italiane, il rapporto della Banca Mondiale di PwC, ossia PricewaterhouseCoopers, società di consulenza sul fisco, il peso complessivo dei tributi nazionali e locali e dei contributi sociali è del 68,6%. Secondo la Banca Mondiale, il più alto tra i paesi europei e tra i più alti del mondo. Qua ci sarà poi da fare qualche distinguo, perché la cifra è veramente elevata. In questo viene considerato, in questo calcolo, anche il cosiddetto sostituto d'imposta, cioè viene considerato come tasse pagate dalle imprese anche le tasse che in realtà riguardano più specificatamente i dipendenti, ossia per esempio i contributi. Ma un'impresa in Italia comunque impiega 285 ore l'anno per adempiere i propri doveri fiscali. La Consob, finalmente, come già vi ha riferito il GR, dopo 141 giorni, ossia 4 mesi e passa, abbiamo il presidente della Consob, l'ex, a questo punto ex o quasi ex vice ministro all'economia, Giuseppe Vegas. Sono felice ma anche un pochino triste, dice, sentiamolo. Credo che motivi di opportunità facciano propendere per il fatto di non continuare l'esame di questa finanziaria da parte mia seduto in questo banco. Colgo l'occasione per scusarmi con lei Presidente e con tutti i colleghi per avere in tutti questi anni per avere in tutti questi, grazie. Perché forse in tutti questi anni non ho sempre, qualche volta ho infastidito qualche collega perché in qualche occasione è capitato che non abbia dato sempre un parere entusiasticamente favorevole su qualche emendamento, e di questo me ne scuso. Detto questo, però, nel ringraziare tutti anche di questa calorosa accoglienza, concluderò come dice il poeta che partire è un po' morire. Grazie. Così dunque il neo presidente della Consob, Giuseppe Vegas, in realtà non ancora insediato. Il Partito Democratico dice purtroppo l'onorevole Vegas, transitando direttamente alla posizione di vice ministro, non soddisfa il requisito di provata indipendenza, e però dal Partito Democratico arriva comunque una sorta di apertura di credito per la competenza di Vegas. Tra l'altro si è appreso che Antonio Catricalà sarà il nuovo presidente dell'Autorità per l'Energia. Lui commenta dicendosi contento, il settore molto importante ed è quello che preferisco. Fronte infrastrutture e non solo, il CIPE ha dato il via libera a un fondo da 785 milioni di euro per finanziare la ricerca industriale. E sempre sul fronte infrastrutture fa sapere il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci che i romani che utilizzeranno il grande raccordo anulare per spostamenti urbani senza immettersi in autostrade già a pagamento non pagheranno il pedaggio. Nel frattempo dal CIPE arriva anche il via libera al corridoio intermodale Roma-Latina e al collegamento Cisterna-Valmontone. E a proposito di qualche carenza nelle grandi opere, segnaliamo, abbiamo ospitato ieri, come sapete, il presidente dell'associazione costruttori Buzzetti. Secondo l'ANCE nel 2011 il bilancio della crisi per il settore potrebbe ammontare a 290.000 posti di lavoro persi e altri 30.000 nel 2011. Veniamo al primo tema di questa giornata. Parleremo del nuovo rapporto sull'economia globale, ma naturalmente in quest'ambito sfioreremo anche il tema dell'Irlanda. (349) 238 6666 per i vostri SMS. È stato presentato, si diceva, il 15° rapporto sull'economia globale. L'Italia, la ripresa, il coraggio e la paura del Centro Einaudi e di UBI Banca, curato dal professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino ed editorialista della Stampa. Professor De Aglio, buonasera. Buonasera a lei. Allora, prima di addentrarci anche magari sui temi irlandesi che sono in parte correlati a quello che è contenuto nel rapporto, io vorrei partire da dove iniziate voi, ossia questo rapporto compie 15 anni e avete messo a paragone quel 1995 dove quelle dell'economia sembravano magnifiche sorti e progressive e questo 2010 dove tutto sembra molto cupo. Insomma, il 1995, dite, l'anno del lancio di Windows 95, dove internet prometteva sfacelli e così faceva l'economia mondiale. Questo 2010 invece, appunto, così cupo, insomma, mi sembra permeato da un certo pessimismo complessivo il rapporto, professore, soprattutto per quanto riguarda i paesi attualmente ricchi, i paesi che attualmente siamo abituati a considerare i paesi ricchi. Beh, non so se chiamarlo pessimismo, ma sicuramente se avessimo dell'ottimismo non motivato in questo momento saremmo irresponsabili. Bisogna capire che l'orizzonte in cui ci muoviamo è cambiato, contiene una buona dose di rischi in più e una buona dose di incertezze non valutabili. E queste si vedono dappertutto. Gli economisti non sanno fare bene le previsioni e le sbagliano spesso, ma anche i biologi e i medici dicono che viene un'influenza aviaria terribile e poi non viene niente. I geologi non sanno prevedere le eruzioni dei vulcani olandesi. I tecnologi si fanno scoppiare le piattaforme in mezzo al Golfo del Messico. Insomma, c'è un clima generale di maggiore cautela in cui le nostre economie stanno oggettivamente perdendo terreno rispetto alle economie di quello che una volta chiamavamo il terzo mondo. In questo rivolgimento complessivo la cautela mi sembra il minimo che possiamo fare. Quindi, diciamo, più cautela che pessimismo, ci sembra di capire. Voi segnalate anche, lei stesso segnala nelle parti da lei direttamente scritte, nelle parti da lei direttamente redatte, una sorta di assenza o comunque di difficoltà da parte di quella che usiamo chiamare la governance globale, ossia paesi che si riuniscono, come nel caso anche anche dell'ultimo G20, paesi che si riuniscono per cercare di trovare soluzioni. Ricordate, lei ricorda il G20 di Londra del 2009, quell'eccesso di ottimismo che arriva a sfociare nella cecità che si manifesta poi nella crisi greca. E direi proprio di sì, cioè qui vediamo il fallimento di un sistema di regole. I sistemi di regole non sono soltanto questioni tecniche, di tecnica giuridica, sono anche questioni di potere, cioè a parità di tecnica si può decidere in un modo o nell'altro che favorisce o diciamo dà maggiore spicco a un paese piuttosto che a un altro. Quello che ci sembra di vedere è il tramonto di un sistema di regole incentrato sugli Stati Uniti e più in generale sui paesi ricchi e un barlume d'inizio di un mondo più confuso, forse più squilibrato, ma in cui nella stanza dei bottoni entrano anche i principali paesi emergenti. A partire naturalmente dalla Cina, e questo è quasi un nome ovvio, insomma, passando anche per il Brasile, la Russia e non solo. Allora, io la vorrei portare sull'Europa a questo punto, perché c'è un tema centrale che poi è alla fine quello che si sta dibattendo in questi giorni e il motivo per il quale probabilmente gli irlandesi, lo abbiamo detto appunto nei giorni scorsi, stanno facendo tanta resistenza nel richiedere l'aiuto dell'Europa e del Fondo Monetario Internazionale. Lei scrive: il tentativo di rimettere in sesto le finanze pubbliche in sostanza rischia di impedire il riassorbimento della disoccupazione. Questo è un nodo centrale, se vogliamo, anche per gli irlandesi, l'abbiamo detto nei giorni scorsi, cioè loro hanno paura che nel tentativo di rimettere in sesto le finanze pubbliche siano costretti a delle mosse come quella di rialzare le tasse sulle imprese, che tanta parte ha avuto nella crescita di quella che possiamo ormai definire la ex tigre celtica, e quindi di fatto di crearsi un problema sociale. Assolutamente sì, gli irlandesi sono in qualche misura abituati alla disoccupazione, era storicamente una delle grosse piaghe per cui emigravano molto, poi erano tornati a immigrare nel loro paese, hanno avuto questi 15 splendidi anni, adesso il loro governo spera che questa abitudine alla disoccupazione non sia scomparsa e che per un breve periodo possano sopportare una disoccupazione estesa. A me pare un ragionamento difficilmente proponibile dagli elettori, comunque il governo sta facendo di tutto per salvare le 2-3 banche più importanti del paese, una delle quali già nazionalizzata. Credo che nella posizione del governo non siano estranee pressioni di altri paesi o della comunità finanziaria, perché se queste banche falliscono, chi ha in portafoglio i titoli emessi da queste banche si trova ad avere delle perdite e per il modo in cui è fatta la finanza internazionale queste perdite possono manifestarsi molto lontano dall'Irlanda, per esempio negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti e poi naturalmente a livello europeo c'è chi ci pensa, perché ci sono paesi molto esposti, i dati li citavamo nei giorni scorsi, più o meno sono paralleli quelli di Germania e Inghilterra, si parla di circa 190 miliardi per ciascuno dei due paesi di esposizione nei confronti appunto dell'Irlanda. La porterei a questo punto, visto che stiamo discendendo dall'economia globale a quella europea, la porterei a questo punto sull'economia italiana. Ho visto che lei sostiene che il nostro paese ha bisogno di portare il suo tasso di crescita al 3%. E fin qui possiamo essere d'accordo, è una battaglia che sostengono anche gli imprenditori e non solo, una crescita del 3% farebbe bene a tutti. Ho un po' l'impressione, professore, che sia da libro dei sogni come cifra. Ma sa, noi viviamo anche di sogni che poi diventano realtà, se non cominciamo a non pensarci non lo raggiungeremo mai. Ricordiamoci che un tasso del 3% era quello che veniva considerato tranquillamente normale proprio 15 anni fa quando abbiamo pubblicato questo primo rapporto, quindi non possiamo essere così peggiorati da non proporci il 3% oggi. Bisogna soprattutto capire cosa possiamo fare per raggiungerlo, in quali settori è bene andare e soprattutto quali inefficienze nell'uso dei fattori produttivi possiamo eliminare per andare in questa situazione. Ma io penso che anche le forze politiche farebbero bene a discutere su queste basi. Un'ultima domanda che le faccio, ritornando al tema irlandese, professore, al tema dell'Irlanda e probabilmente, anche se speriamo di no, in un futuro, anche al tema del Portogallo, seppure la condizione sembra lievemente migliore, se le previsioni dell'Ocse saranno rispettate, si prevede una crescita dell'1,5% quest'anno per quanto riguarda il Portogallo, seppur la condizione delle finanze pubbliche portoghese è peggiore di quella irlandese, le chiederei una sua previsione sul caso. Insomma, a me sembra evidente che a questo punto l'Europa interverrà naturalmente, però non so come dire, rischia di replicarsi nuovamente il caso Grecia e quante altre volte lo vedremo nei prossimi mesi? Sì, io penso che l'Europa finirà per intervenire. Il problema è di capire quanto interverrà, non se interverrà. Primo, se interverrà insieme al Fondo Monetario, che vorrebbe dire condividere il peso di questo intervento con la comunità internazionale attraverso i suoi organi ufficiali, oppure, cosa che si mormora essere più probabile, se magari qualcun altro ci viene a dare una mano. Questo qualcun altro ha la pelle gialla e viene da Pechino. Grazie dunque al professor Mario De Aglio anche per quest'ultima battuta, che è docente di economia internazionale all'Università di Torino e che ha presentato oggi il volume da lui curato, nella ripresa Il coraggio della paura, il 15° rapporto sull'economia globale l'Italia, del Centro Einaudi e UBI Banca. Buonasera professore. Grazie, arrivederci. Adesso ci prendiamo una breve pausa e poi parleremo dei mercati. Come si diceva, tutto bene oggi, FTSE MIB più 1,16%, FTSE All Share più 1,12%. Le 17:35 minuti è il momento dei mercati. Guido Maurino, Radio Coro Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, la giornata è stata positiva, FTSE MIB più 1,17%, FTSE All Share più 1,12%, con l'America che va parecchio bene, direi, un più 1,63% sul Dow Jones, un più 1,97% sul Nasdaq. Immagino che sia un mix di fattori, Guido, cioè tra la vicina soluzione della questione irlandese da una parte, l'America che va bene anche sulla scorta di un effetto GM particolarmente positivo, no? Sì, sono questi sostanzialmente i due fattori che oggi hanno consentito alle borse di guardare con maggiore serenità al futuro e quindi di riprendere leggermente quota. Da un lato il governo irlandese ha annunciato che sono stati aperti dei contatti con la Commissione, la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario per trovare il modo per aiutare Dublino, si parla di un aiuto che dovrebbe essere attorno ai 10 miliardi. Dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti alcuni dati macroeconomici sono stati positivi, sia quelli sulle richieste dei sussidi di disoccupazione, sia un'attività più vivace del previsto nell'area di Filadelfia, che uniti all'esordio positivo di GM in borsa, che appunto ritorna in borsa dopo 16 mesi, hanno contribuito insomma a dare una maggiore fiducia ai mercati che hanno chiuso in progresso. Sì, dai 33 a oltre 35 dollari per azione per quanto riguarda General Motors, dai 33 della quotazione naturalmente agli oltre 35, il che ovviamente ha avuto un impatto, diciamo già in apertura, un po' su tutto il settore auto, Fiat su tutti un più 3,5%. Sì, Fiat più 3,5%, ma abbiamo visto che anche Exor più 1,75%, Pirelli più 3,68%, si sono mosse molto bene. dopo, anche perché per quello che riguarda il lingotto, qualcuno inizia anche a pensare a quando dovrebbe tornare sul mercato Chrysler. La quotazione anche in questi giorni è stato ribadito da Marchionne, è prevista per la fine del 2011, quindi un'accoglienza positiva di GM in qualche modo si trasmette anche come effetto prospettivo su Chrysler. In realtà poi il titolo migliore del listino, almeno sul FTSE MIB, è ST Microelectronics, che guadagna il 3,82%. Prima di parlare di ST, però, c'è anche Pirelli che guadagna un 3,68. Anche qua c'è un effetto settore auto, Guido? Sì, c'è un effetto settore auto e un effetto di trascinamento rispetto a Continental, che oggi si è mossa molto bene in Germania sulla scia di alcune valutazioni positive da parte degli analisti sulla base delle prospettive per il 2011, per cui quest'unione di fattori ha fatto sì che Pirelli abbia guadagnato il 3,68%. Venendo ad ST? Venendo a ST, oggi ha approfittato un po' della buona intonazione di tutto il comparto tecnologico, che si è mosso soprattutto grazie a Infineon, che a Francoforte ha fatto segnare un più 4% dopo aver annunciato martedì scorso che la società torna al dividendo, il primo dividendo dal 2001, e che le prospettive quindi sono abbastanza solide per il comparto, e questo ha un effetto positivo anche su ST. Bene fanno oggi tutte le banche. La Popolare di Milano guadagna il 3,20%, Mediobanca il 2,31%, Unicredit l'1,76%. Ci sono ragioni particolari più in generale sul settore? Poi su Unicredit ci sono delle dichiarazioni di Ghizzoni, se non sbaglio, no? Sì, c'è un rasserenarsi della situazione irlandese che si riflette in modo positivo un po' su tutto il comparto bancario. Per quello che riguarda Unicredit, che ha chiuso a più 1,76, ma per lungo tempo è stato il migliore dei titoli bancari, ci sono anche queste dichiarazioni dell'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, che ha rassicurato sul fatto che la banca ha un'esposizione molto limitata ai titoli irlandesi, e ha poi confermato che il 14 dicembre sarà presentato per la prima volta in CDA il nuovo piano strategico, che poi avrà una sua ufficializzazione in primavera del 2011. Nel quadro dei bancari, con UBI Banca che guadagna lo 0,77%, Intesa San Paolo che guadagna lo 0,43%, e c'è ancora il Banco Popolare che, nonostante la giornata positiva un po' per tutto il settore, guadagna appena lo 0,07%, ma ci sembra che in questi giorni non sia una novità. Tra i titoli peggiori troviamo Finmeccanica, che lascia sul terreno l'1,26%. Sì, Finmeccanica ieri ha tenuto un Investor Day con gli analisti a Londra, e oggi gli analisti hanno un po' penalizzato nei loro report la società, hanno giudicato questo incontro piuttosto deludente, perché non hanno avuto da Finmeccanica delle indicazioni chiare su come andrà il 2011 e il 2012, ma semplicemente una conferma della guidance per il 2010, per cui insomma c'è stata un po' di delusione che oggi ha penalizzato sia Finmeccanica, meno 1,26%, e anche in parte Ansaldo, meno 0,95%. Questo per quanto riguarda Ansaldo. Per Mediaset invece abbiamo un nuovo calo dello 0,75%. Ci sono arrivati nei giorni scorsi anche messaggi degli ascoltatori, quando abbiamo fatto sentire le parole di Pier Silvio Berlusconi, che diceva i cali sono dovuti alla situazione politica, ma è un errore perché Mediaset è un'azienda solida, eccetera. In questo caso in realtà ci sono ragioni che non sono politiche, ma di puro conto, mettiamola così. Sì, questa volta la politica diciamo non c'entra, c'entra invece il fatto che la controllata Telecinco, la controllata spagnola, ha annunciato un aumento di capitale da circa 500 milioni di euro per espandere la sua attività in Spagna attraverso l'acquisizione della catena televisiva 4 e di una parte delle attività di Digital Plus. Questo per Mediaset vorrà dire un esborso che è calcolato in circa 252 milioni di euro, quindi soldi che devono uscire dalle casse di Mediaset, che oggi hanno leggermente depresso il titolo. Tra i titoli minori ci sono segnalazioni? Tra i titoli minori segnaliamo il più 15,34% di Sopaf, dopo le indiscrezioni riportate oggi dal Sole 24 Ore, che al riscadenzamento del debito e la cessione di asset non strategici sarebbe vicina. Oggi c'è un CDA della società che ha confermato in buona sostanza le indiscrezioni raccolte del Sole 24 Ore. L'intera operazione di ristrutturazione del debito dovrebbe valere circa 150 milioni di euro. A chi ce li chiede, adesso andremo agli altri titoli. Nel frattempo vi diciamo sempre tra i titoli minori che dopo la corsa di ieri Pininfarina ha guadagnato anche oggi lo 0,85%. Lo ricordiamo, ieri si era parlato di un possibile interessamento di Magna. Ci dice un ascoltatore, ci segnala un ascoltatore una segnalazione per te Guido, insomma di non... Le borse che guardano con serenità al futuro, andiamoci un pochino cauti. Grazie ancora, grazie Guido Maurino di Radio Cuore il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Il resto del quadro di giornata vede A2A in guadagno del 2,14%, Mediolanum del 2,08%, dell'1,97% Saipem, dell'1,8% Italcementi, Unicredit l'abbiamo detto dell'1,76% e dell'1,75% Exor, Autogrill di 1,5% così come Tenaris, CIR dell'1,41%, Generali dell'1,26%, Eni dell'1,18%, il Monte dei Paschi dell'1,14%, Bene Impregilo 1,07% di guadagno, Prismian più 1,01%, Telecom Italia più 1 e ancora Parmalat più 0,92% e Buzzi più 0,86%. Lo 0,7 lo guadagnano UbiBanca e Atlantia, Enel lo 0,62%, Campari lo 0,59%, Terna mezzo punto percentuale, lo 0,4 Intesa San Paolo, lo 0,3 Snam Rete Gas, lo 0,19 Luxottica. Negative Geox che cede lo 0,07%, Unipol lo 0,10%, Lottomatica lo 0,19%, Bulgari lo 0,42%, Fondiari Assai lo 0,68% e degli altri si è detto. L'euro riguadagna quota 1,36, per la precisione in questo momento 1,36,18 contro dollaro, mentre continua ad andare bene le cose a New York, più 1,60 sul Dow Jones, più 1,97 sul Nasdaq. La linea adesso va alla viabilità, ci ritroviamo tra un attimo e parleremo di una ricerca realizzata per Florence 2010, la settimana internazionale dei beni culturali e ambientali, che sfata anche qualche luogo comune per quanto riguarda l'investimento in cultura, senza voler fare, diciamo così, del moralismo. Le 17:47 minuti 39 secondi, a chi ci chiede perché Eni non riesce a riprendersi, diciamo che in realtà oggi ha messo a segno un rialzo dell'1,18%, a chi ci chiede invece sull'OPA di Fastweb cosa si prospetta per chi non ha aderito, ci informeremo e vi faremo sapere. Parliamo adesso di beni culturali. E non solo, di cultura in generale, intesa in senso un pochino più ampio. Nell'ambito di Florence 2010, la settimana internazionale dei beni culturali e ambientali, che si svolge fino al 20 novembre, è stato presentato uno studio strategico, curato e realizzato da Ambrosetti, sul tema dell'economia dei beni culturali. Alcuni dati interessanti. Un incremento di PIL di 100 euro nel settore culturale ne genera 249 per il sistema economico, di cui 134 al di fuori del sistema culturale stesso. Per ogni 2 posti di lavoro creati nel settore ne viene generato 1 in un settore diverso. E poi c'è un collegamento diretto tra il settore culturale e l'industria manifatturiera, che beneficia di 62 euro di PIL per ogni 100 euro di investimento in cultura. Io saluto Francesco Caracciolo, che è direttore di Confindustria a Firenze, che è l'associazione che ha promosso insieme ad Intesa San Paolo, la Casa di Risparmio di Firenze, CNA Firenze, la manifestazione appunto Florence 2010. Caracciolo, buonasera. Buonasera, buonasera a voi agli ascoltatori. Allora, come si diceva, senza fare del moralismo, questa ricerca sembra sfatare qualche luogo comune sulla cultura, no? Sì, certamente. Questa ricerca punta a evidenziare che attorno ai beni culturali, ma anche all'ambiente, inteso come uno dei beni culturali da tutelare, da promuovere del nostro paese, ma non soltanto del nostro paese, attorno a, quindi ai beni culturali e all'ambiente si sviluppa un'economia che è un'economia importante, che spesso viene trascurata e che noi con questa iniziativa e con questo studio cerchiamo invece di valorizzare e di anche sostenere. Allora, mi sembrano interessanti un paio di elementi di questo studio. Oltre al dato in se stesso, è stato elaborato un indice che è stato chiamato Florence Index, proprio in onore, diciamo così, della manifestazione, che di fatto mette insieme il sistema della cultura nel suo complesso, comprendendo in questo non solamente quello che ci viene in mente all'impronta quando pensiamo alla cultura, ossia la rovina romana o il museo, ma mette insieme il sistema dell'industria culturale, comprendendo in questo i media, la stampa, la produzione di libri, l'editoria in genere, mettendoci dentro la moda e il design. Con questo Florence Index emerge qualche sorpresa. La Toscana si piazza quarta, anche per ovvi motivi. Prima in assoluto è la Lombardia, Caraccio. Sì, questo è importante. Voglio precisare che il dato che ha riferito in precedenza, che riguarda il moltiplicatore della spesa in beni culturali, è stato possibile ricavarlo soltanto partendo da un'accezione ristretta di attività culturali. Quindi con un'accezione più ampia quel dato è presumibile che possa essere ancora maggiore. Diciamo così, quel moltiplicatore è calcolato sul sistema culturale inteso in senso classico. Inteso in senso stretto, esattamente. Considera tutto l'indotto e quindi tutte le attività economiche che vengono generate da una spesa cultura intesa in senso stretto. Per ampliare poi il raggio e quindi considerare in modo più complessivo il fenomeno, abbiamo elaborato questo altro indice che abbiamo appunto chiamato Florence, che distingue quattro parti di quella che consideriamo l'industria culturale e creativa, per il quale abbiamo coniato il termine di golden economy, assimilandolo un po' alla green economy, perché il messaggio che a noi preme mandare è che noi siamo certamente in una crisi economica che ancora non è passata e dobbiamo cercare dei modelli di sviluppo nuovi. La green economy si è certamente affermata a livello internazionale, crediamo che delle potenzialità molto interessanti ci siano invece anche per un'economia dei beni culturali e non soltanto ambientali, che quindi abbiamo chiamato golden economy e che abbiamo cercato di indagare meglio. Quindi abbiamo individuato quattro aree distinte sotto due dimensioni, dal punto di vista dell'output, quindi un output o strettamente culturale oppure un output creativo, che cioè utilizza la cultura per produzione, e poi a seconda della riproducibilità dell'output. Ci sono alcune cose che ovviamente, alcune attività che non sono riproducibili, sì, e altre che sono, diciamo, industrializzabili e quindi riproducibili. Quindi le quattro aree che derivano dall'incrocio di queste dimensioni sono il capitale culturale e ambientale, dove abbiamo tutte le arti visive, dove abbiamo tutto il patrimonio, i media, che sono un esempio di output culturale che è riproducibile, e quindi tutte le distribuzioni cinematografiche e musicali, le editorie, la stampa, l'infrastruttura digitale, il networking, che è un output creativo non riproducibile, e quindi tutte le manifestazioni fieristiche, la interconnettività digitale, e poi il sistema creativo, dove il nostro paese eccelle, e quindi si tratta di un output creativo e riproducibile, dove abbiamo tutto il design, l'architettura, la moda, l'agroalimentare, l'artigianato artistico e anche la ricerca e sviluppo. E quindi diciamo, ecco, non quello che intendiamo, come si diceva, come beni culturali in senso stretto. La faccio chiudere perché appunto stiamo per chiudere, certo, sulla questione dei quattrini. Allora, dal 2004 ad oggi si è passati da 335 milioni di investimento nei beni culturali a 148,5 milioni. Eppure, proprio da Florence parla il ministro Bondi e dice: ogni anno le giacenze del nostro ministero per quanto riguarda l'investimento nella tutela del patrimonio storico-artistico, visto che anche di Pompei si è parlato molto in questi giorni, ammontano a 650 milioni di euro. Questo per farraginosità amministrative. A me sembra un dato impressionante. Certo, l'efficienza della spesa nelle pubbliche amministrazioni è senz'altro fondamentale e in questo settore lo è probabilmente ancora di più. Anche per questa ragione noi ci siamo impegnati in questa iniziativa, perché siamo certi che ci sia bisogno di un maggiore dialogo e di una maggiore comprensione anche tra il mondo culturale ed il mondo economico. Quindi serve più cultura economica nell'amministrazione dei beni culturali, come serve da parte del sistema economico avvicinarsi alle problematiche della tutela e della valorizzazione dei beni culturali per portare efficienza. Voglio sottolineare un punto che fino ad oggi forse abbiamo considerato in modo superficiale l'economia solo legata alla valorizzazione. Sì. È importante considerare che l'economia oggi può dare un contributo estremamente importante non soltanto alla valorizzazione, che pure serve, sì, servono risorse, ma anche alla tutela. Grazie. Perché per tutelare e conservare serve innovazione tecnologica e quindi economia. Grazie. Grazie dunque a Francesco Caracciolo, direttore generale di Confindustria a Firenze, per essere stato con noi. Chi ci chiede se è in tavola il giudizio che le aziende italiane sono tassate fino al 68%, è un piatto che non ci saremmo mai fatti mancare, ve lo proponiamo nella seconda parte del programma. Le 18, 8 minuti e 50 secondi, gentili ascoltatori, bentornati a Focus Economia da Simone Spezia. 349-238-6666 è il numero di SMS per intervenire in diretta. Dunque, a chi ci chiede di parlare di tasse, eccoci. Oggi sono stati diffusi i risultati dello studio Paying Taxes 2011. È stato realizzato dalla Banca Mondiale e dalla società di consulenza che prima si chiamava PricewaterhouseCoopers e che adesso si chiama PwC. Che cosa emerge? Emerge qualcosa che in parte già sapevamo: il peso di tasse e contributi in Italia sulle imprese è al 68,6%. È il più alto tra i paesi europei, tra i più alti al mondo, ma quello che forse ci ha impressionato di più e forse quello che è il vero oggetto, uno dei veri oggetti della riforma fiscale sulla quale si sta cercando di lavorare a livello governativo, è l'impressionante complicazione del pagare le tasse, che tutti, imprenditori ma anche dipendenti, partite IVA che sono all'ascolto, conoscono benissimo. Io saluto Fabrizio Acerbis, che è partner di PwC Tax and Legal Services, che ci ha raggiunto in studio. Buonasera. Buonasera. Allora, vediamo di fare un punto su questa cosa. Io cito ancora qualche dato giusto per dare un'idea. Allora, l'Italia è 49esima per numero di adempimenti e parliamo di un campione di 183 paesi. 128esima nel complesso per quello che possiamo definire la facilità di pagare le tasse, e quindi è molto difficile pagare le tasse. 123esima per tempo impiegato e 167esima, quindi tra le ultimissime posizioni per il cosiddetto total tax rate, ossia le tasse complessive sulle imprese. C'è una nota da fare a Cerbis che facevamo già all'inizio. C'è da dire che questo dato sul total tax rate, questo 68,6%, sconta una cosa particolare, ossia che le imprese sono sostituti d'imposta e quindi in questa cifra vengono considerati anche i contributi per i lavoratori, no? Sì, è esatto. Quello che in qualche misura distingue l'Italia da altri paesi è anche il carico contributivo a carico delle imprese, che rispetto ad altri paesi incide sul parametro. Rimane comunque fermo il fatto che il dato complessivo è sicuramente alto in valore assoluto, è forse ancora più alto in termini relativi se consideriamo i paesi che sono praticamente tutti i maggiori paesi, sono 183 paesi come diceva lei nel mondo, il dato di 167 è oggettivamente un dato molto alto. Se posso aggiungere una cosa, questo dato è molto alto ma non differenzia l'Italia in modo significativo rispetto alle economie a noi vicine. Se pensiamo alla Francia, alla Germania, alla Spagna, i dati rispetto all'unico dato relativo al carico fiscale sono comunque sopra il centesimo posto per tutti questi paesi. Benissimo, tra l'altro su questo total tax rate c'è da segnalare che se l'Italia, se per l'Italia il peso è del 68,6%, per la Francia è del 65,8%, quindi in realtà non ci discostiamo moltissimo. Poi possiamo ragionare all'infinito, e ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, su quanto poi lo Stato offra in termini di servizi, se così possiamo dire, a fronte delle tasse pagate. Abbiamo un 57% per il Belgio, la famosa Irlanda della quale abbiamo parlato a lungo è al 26,5%. Altro dato che colpisce: il tempo impiegato, anche se naturalmente c'è una certa soggettività nella valutazione, da un'impresa italiana per pagare le tasse, 285 ore l'anno, dato che ci pone, come si diceva, al 123° posto. Sì, questo è un dato forse che ancora di più del carico fiscale medio che veniva rappresentato prima, è un dato che effettivamente mette l'Italia in una posizione, diciamo, più difficile rispetto ai paesi con cui normalmente ci confrontiamo. Quindi l'elemento di semplificazione del sistema da un punto di vista dei risultati che questo rapporto quest'anno, ma anche gli anni precedenti, fa emergere in modo netto è che al di là del carico fiscale c'è un problema estremamente serio di semplificazione del sistema. Che, come si diceva, è quello che ci si propone sostanzialmente di fare con la riforma del sistema fiscale, che alla fine, Acerbis, alla luce di quel che sta succedendo anche a livello europeo, probabilmente è l'unica soluzione, nel senso che di tagliare le tasse in questo momento non parla nessuno. Ma lei mi fa una domanda che è più politica che tecnica. Cerco di mantenermi sul lato tecnico, e sul lato tecnico sembra abbastanza chiaro che non tanto da un punto di vista fiscale, ma anche da un punto di vista macroeconomico, le condizioni per abbassare le tasse sono molto difficili da realizzare in Italia come negli altri paesi. Quindi è chiaro che per quello che costituisce l'oggetto di indagine di questo rapporto e che la Banca Mondiale enfatizza in modo particolare, se la leva del carico fiscale in questi anni, anche per effetto della recessione, sarà difficile in qualche modo da utilizzare, l'elemento della semplificazione complessiva per numero di adempimenti e per qualità, e quindi il tempo necessario per adempiere, diventano probabilmente la chiave su cui i sistemi si misureranno e su cui i governi dovranno lavorare. Naturalmente, e questi appunto sono gli obiettivi su cui si stanno confrontando le parti sociali, ovviamente ammesso che il governo regga. Ci chiede un ascoltatore: qual è il paese in ultima posizione? Allora, io non so se il dottor Acerbis lo sa, io se non ricordo male, che ho guardato la classifica, dovrebbe essere la Repubblica Democratica del Congo, però... Sì, diciamo che tutti i paesi africani sono in fondo alla classifica. Però su questo forse c'è un dato interessante da far emergere, che i paesi che stanno andando verso forme nette di semplificazione e negli anni immediatamente prima della recessione anche sull'abbattimento delle imposte dirette sono i paesi a economia matura. Cioè in realtà continua a essere abbastanza netta la distinzione fra i paesi che usano la leva fiscale in modo ragionato e paesi che, essendo in qualche modo più in una fase di crescita tumultuosa dei propri mercati, la leva fiscale la ignorano totalmente. Allora, non abbiamo detto che il governo sta lavorando alla riforma fiscale, anche se in parte è vero, abbiamo detto che sono stati aperti dei tavoli sulla riforma fiscale. Poi, ripetiamo, bisognerà vedere anche alla luce delle ultime evoluzioni politiche che cosa succederà del governo. Chiediamo anche di smetterla un pochino con questa demagogia: come mai 4 milioni di partite IVA non danno quasi nessun contributo fiscale? Non è vero questo, non è vero. Insomma, ci sarà qualcuno che evade, ma insomma, che addirittura 4 milioni di partite IVA evadano completamente le tasse, insomma, è un discorso un po' assurdo e appunto un pochino demagogico. Allora, io la ringrazio Fabrizio Acerbis, che è partner di PwC Tax and Legal Services, per averci aiutato a capire un pochino questa ricerca, che insomma può anche dare qualche indicazione di massima, e gli obiettivi naturalmente sono questi, a livello governativo, ai livelli politici, insomma sono strumenti di lavoro per la politica. Grazie a Cerbis e buonasera. Grazie a lei e agli ascoltatori. Adesso una breve pausa per la viabilità, poi parleremo del rapporto dell'Ocse con l'intervista al capo economista Padoan e parleremo dell'arrivo del 3G e del Wi-Fi sui treni Frecciarossa. Le 18 e 19 minuti, nel frattempo l'Aula della Camera ha dato il via libera all'emendamento della Commissione alla legge di stabilità che prevede tra le altre cose l'ecobonus per le ristrutturazioni edilizie, l'intervento in favore dei malati di SLA, oltre a misure fiscali sull'autotrasporto. Il nostro prossimo tema è il rapporto dell'Ocse. Economic Outlook, sul quale vi abbiamo già dato qualche indicazione, si parla di una ripresa lenta e incerta a livello globale e comunque un PIL 2010 che cresce del 2,8% nell'area OCSE, PIL in rosso per Irlanda, Grecia e Spagna e positivo per il Portogallo, male soprattutto la Grecia, -3,9%, -0,3% l'Irlanda. E poi i dati che riguardano l'Italia. Più 1% di crescita nel 2010, più 1,3% nel 2011, il picco del debito viene previsto nel 2012 al 120% del prodotto interno lordo, mentre secondo il governo si dovrebbe attestare al 117,5%. Viene visto in calo il rapporto deficit-PIL al 5% nel 2010, al 3,9% nel 2011 e al 3,1% nel 2012. E poi il capo economista Piercarlo Padoan che dice che l'Italia ha bisogno che la legge finanziaria sia approvata al più presto per assicurare mercati e investitori. Il paese non è a rischio, ma servono riforme. Sentiamo l'intervista di Giuliana Licini di Radio Cor Il Sole 24 Ore, inviata a Parigi di Radio Cor Il Sole 24 Ore, proprio a Piercarlo Padoan. Quello che è cambiato rispetto a maggio è che non è cambiato molto per l'Italia. La crescita continua, anche se a un ritmo moderato. Le raccomandazioni che noi avanziamo per l'Italia è che, vista il comportamento relativamente positivo delle variabili fiscali, visto che malgrado il suo alto debito l'Italia non è stata oggetto di interesse, diciamo così, dei mercati finanziari, questo va ascritto alla condotta della politica fiscale, è giunto il momento per l'Italia di affrontare la discesa del debito, cioè cominciare ad avere una strategia fiscale di abbattimento del debito che avrebbe un impatto estremamente positivo sulla sostenibilità e la crescita di medio periodo. Le criticità di carattere strutturale riguardano la mancanza di riforme che possano aumentare la produttività. Riteniamo che ci sia ancora da fare sul mercato del lavoro per collegare l'andamento delle remunerazioni alla produttività anche a livello locale. Riteniamo che bisogna continuare a insistere sulla riforma della pubblica amministrazione per aumentarne l'efficienza e avere risparmi di finanza pubblica. Riteniamo che si debbano fare sforzi di miglioramento per il sistema dell'istruzione superiore universitaria e di conseguenza avere vantaggi di produttività da quel lato. Infine, l'innovazione in Italia è un'attività che sta molto indietro rispetto ai paesi di reddito equivalente e quindi forse occorre considerare una strategia dell'innovazione ad ampio spettro. La legge di stabilità si pone l'obiettivo di riduzione del deficit e quindi va nella direzione giusta. Nel medio periodo riteniamo che si possa andare nella direzione di una riforma del sistema fiscale, del sistema della tassazione, che abbia effetti redistributivi e sia più favorevole alla crescita. Questo dunque Piercarlo Padoan, capo economista dell'Ocse. Proseguono i messaggi sul tema del fisco. Ci chiedete, ma gli oltre 10 milioni di persone che non pagano IRPEF sono tutti dipendenti? Non è questo il ragionamento che stiamo facendo. È ovvio che il grosso dell'evasione si annidi nel lavoro autonomo fondamentalmente o anche insomma nelle piccole, piccolissime imprese. Questo è evidente, insomma, non è nuova la cosa. È vero anche che ci sono alcuni lavoratori dipendenti che magari hanno un secondo e terzo lavoro al nero, insomma, quindi ognuno si prende le sue responsabilità. L'importante è questo è quello che dicevamo, semplicemente è non generalizzare. Veniamo al alla questione di dei treni Frecciarossa con Telecom Italia, 50 milioni per avere un internet migliore sui treni. Il nuovo servizio a settembre 2011 arriverà anche sul Freccia Argento, Napoli-Roma-Venezia, e sul Napoli-Roma-Verona. L'amministratore delegato del gruppo FS, Mauro Moretti, intervistato da Enrico Pagliarini. Su tutta la flotta Frecciarossa dal 12 dicembre vi saranno i servizi di connettività con continuità e alta qualità per telefoni, per computer, per smartphone, per iPad. Da settembre prossimo tutte queste cose saranno estese anche alla flotta Freccia Argento, cioè quella che va da Roma verso Verona o Roma verso Venezia, per intenderci. Tutto ciò nasce da una collaborazione con Telecom Italia. Che cosa avete fatto voi dal punto di vista infrastrutturale? Che tipo di investimento avete fatto? Intanto noi abbiamo cercato un partner di altissima qualità, altissima affidabilità, capace di poter mettere in gioco anche importanti ricerche, infatti l'hanno fatto nei loro laboratori, e che potesse offrire un servizio aperto anche agli altri operatori della rete telefonica. Questa è stata la prima base di ricerca. Valutando le offerte che sono state fatte da Telecom e da altri, abbiamo valutato questa offerta la migliore dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista dell'apertura alla concorrenza, in modo che tutti i clienti, anche se non solo quelli di Telecom, possano in prospettiva avere il servizio. Investimenti? Dunque, investimenti sono, parte dico comunemente, Telecom FS aggiuntivi, sono di 30 milioni, ma aggiuntivi vuol dire che si collocano su un centinaio di milioni di investimenti già fatti per le fibre ottiche o i sistemi di ripetizione che erano già stati collocati per normali altri strumenti, compresi la guida del treno, che è tutta fatta via radio. Sentiamo anche Franco Bernabè, amministratore delegato di Telecom, sempre intervistato da Enrico Pagliarini. Dunque, nasce da una richiesta delle Ferrovie dello Stato, ma nasce anche da una nostra esigenza, cioè l'esigenza di servire i nostri clienti in mobilità, anche in condizioni molto critiche dal punto di vista delle esigenze tecnologiche, che sono quelle presentate dai treni ad alta velocità. Il treno ad alta velocità è un mezzo che viaggia a oltre 300 km all'ora, quindi costringe l'infrastruttura tecnologica a una serie di interfacciamenti con la rete estremamente complessa, perché ogni stazione radiobase deve trasferire il segnale mano a mano che viene lasciato il campo a quello successivo. Questo farlo a 50-100 km all'ora è semplice, farlo a 300 km all'ora è molto complesso, in più il treno è schermato. Quindi la complessità tecnologica del problema era una complessità notevole che noi abbiamo dovuto risolvere, abbiamo risolto tra l'altro offrendo ai nostri clienti, e clienti di Telecom Italia ovviamente, e quando gli altri operatori entreranno sull'infrastruttura che noi abbiamo costruito, a tutti gli operatori, abbiamo offerto due soluzioni: la possibilità di avere accesso in terza generazione, cioè con l'UMTS, e l'accesso Wi-Fi. Perché attraverso l'accesso Wi-Fi il cliente potrà accedere al portale di treno, potrà accedere a una serie di contenuti di servizio o di intrattenimento che gli consentiranno di arricchire la sua esperienza di viaggio. Siamo quasi in chiusura e siamo con Giuseppe Cruciani, che tra poco sarà qua con la Zanzara. Giuseppe, cosa c'è in tavola stasera? Beh, insomma, le solite chiacchiere della politica, perché iniziano 20 giorni decisivi, 20 giorni in cui molti parlano esplicitamente di mercato delle vacche, cioè dire di compravendita dei parlamentari. Chissà cosa succederà da qui al 14 dicembre, quando ci sarà il voto decisivo sul governo Berlusconi. Grazie a Giuseppe Cruciani, grazie naturalmente come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione, a Paolo Corleoni in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.